sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sondern wir merken gerade, die Artist ist in das Nest. Nicht nehmen wir es mit Argument, weil wir gesagt haben, Russen muss da das Nest schicken, wir müssen da klar, da gesehen, da gab es drei, wir rot, da nicht immer von Rede, da die Frau, die Mama, die Verstahlung, weil du zu Erwin. Ci sono delle forze che gravano su questo processo, forze oscure, potentissime, potentissime, potentissime. I demoni esistono, che lei ci creda oppure no. Lei ci creda oppure no. Ego sum quintus habitat. Non potas me expellere, sacerdos. Tentera. Ego sum quintus in habitat. Scusate, ho avuto un attimo di confusione, non so bene cosa sia successo. Parlavo al contrario. Chiaro segno diabolico, lo sanno tutti, basta aver visto L'Esorcista, tutta una serie di film, passando per L'Esorcicio, arrivando alle ultime rappresentazioni di possessione diabolica. Quindi oggi il diavolo non ha più segreti per noi, sappiamo esattamente chi egli sia, ormai ne siamo circondati. Diavoli appaiono nella pubblicità, diavoli appaiono nei film vestendoli con il marchio Prada, diavoli appaiono ovunque, tutto sappiamo del diavolo. Il diavolo ormai sembra quasi convivere beamente con la nostra giornata quotidiana, tanto che più cos'altro ha da offrirci per tentarci? Cos'è che non abbiamo con mezzi normali, senza mettere in gioco la nostra anima, per poter fare lo scellerato patto con Satanasso? Beh, il diavolo probabilmente oggi dovrà rivedere anche le sue strategie, ma le sta sicuramente rivedendo. Non possiamo pensare che ancora egli, nella sua infinita astuzia, possa rivestire di quegli abiti ridicoli, vestirsi da paggetto con la piuma come Mefistofele, con le corna, i piedi caprini e il sesso in verecondo come tutte le rappresentazioni che fanno tanto andare in sollucero i satanisti con la pancetta di casa nostra e che lo usano come circostanza giustificatoria delle loro ammucchiate del sabato sera. Il diavolo è veramente dappertutto. Di diavolo si parla tanto, si parla a sproposito. Anche coloro che dovrebbero tenerci lontani dal diavolo sembrano ormai farne una pubblicistica quotidiana. Vi do soltanto due episodi che mi hanno, due piccoli episodi cronaca che mi hanno dato la necessità di parlarne questa mattina. Qualche giorno fa uscì una notizia: il demonio dietro all'Italia e la crisi, il decano mondiale degli esorcisti, il tentatore è presente, se la ride. La recessione mondiale, la crisi dei mercati, la tribolazione all'Italia, tutta colpa del demonio che suggerisce scelte economiche e finanziarie sbagliate per dividere e impoverire i paesi. A dirlo questo è padre Gabriele Amort in un'intervista al sito cattolico Pontifex Roma. Poi ieri è uscita la notizia lanciata da Dago Spia, ma ripresa dal Dago Spia, non so bene se è ufficiale, reale, accreditato o fittizio, detto Petrus, che è il quotidiano online sul pontificato di Benedetto XVI. È uscita una notizia firmata da una persona che esiste realmente, padre Tiziano Repetto, che è un sacerdote esorcista della diocesi di Roma, che ha un blog, un sito, l'avevo anche cercato ma non mi ha risposto. Dice, racconta di due esorcismi che avrebbe effettuato qualche giorno fa, cita la storia di una signora di 60 anni sofferente fin da ragazza, che ha mostrato subito più forza del solito. Prima da solo riusciva a contenerla con l'aiuto di San Michele Arcangelo. Lunedì in due non ci siamo riusciti, alta poco più di 1,50 m, pesa meno 60 kg, ha gridato fino a spaccare i timpani. A un certo punto l'entità ha detto, sbavando e grigliando i denti, con Eluana sono intervenuto io, non riuscirete a salvarla. Erano circa le 15:30, Eluana è morta dopo poche ore. Stessa scena per R, 50 anni, posseduta per 13 anni, per aver bevuto per sbaglio un filtro confezionato con ossa di defunti. Mi ha detto che da una settimana non ha più le normali funzioni fisiologiche, a stento supera 50 kg, eppure in treno riusciamo a tenerla ferma. Pure la sua entità, sono 7 demoni maggiori, ha asserito chiaramente che per Eluana non vi era speranza. Ecco, quando leggo queste cose, comincio a pensare che il diavolo veramente debba cambiare strategia, perché sennò altrimenti viene preso per una delle tante facezze di Striscia la Notizia. Parla a volte intelligibile qua. Esprimere. Satan parla a volte intelligibile qua. Satana è il capo, ma i demoni sono tantissimi. Quindi quando è un nome di carattere biblico è un pezzo grosso. Satana, Asmodeo, Zabulon, Meridiano, ecco, sono allora demoni grossi. Altre volte hanno i nomi in base ai disturbi che danno. Mi chiamo Morte, per esempio, per dire che tenta che la persona vada, arrivi al suicidio. Ci sei con te, Luca? Simultaneamente su Facebook Simon mi pone un altro paradosso su questa inflazione demoniaca che secondo me non fa affatto bene al diavolo. Cioè, qualcosa non torna. Un cassaintegrato viene definito povero diavolo, come se l'indigenza e la povertà fossero colpe da espiare. Mai sentito dire povero angelo, in compenso se la fortuna di passare la notte con una satanata lo consideri una grazia ricevuta. O Satana rappresenta l'intelligenza strategica del male, mentre il diavolo ottimista è il cipute della situazione. Ma davvero sono un problema di gerarchia semantica, o il confine tra bene e male è più sottile e indefinito? Beh, voi pensavate che io fossi tanto ingenuo e tanto sprovveduto di fare una trasmissione sul diavolo da solo? No, mi sono portato un prete in studio. Filippo Di Giacomo, buongiorno. Buongiorno. C'ho il prete aziendale, ce l'ho qui con me, che è naturalmente la mia sponda su questo territorio. Filippo, sei uno dei pochi preti con cui parlo volentieri, lo dico in partenza, e per questo ti ho chiamato. Al di là del legame di colleganza e di amicizia, sei molto esperto di queste cose. Non trovi anche te che queste manifestazioni che ho appena lambito in realtà rappresentino una profonda crisi anche del diavolo? Beh, tu hai usato delle parole che più che parole dovrebbero essere, diciamo così, concepite come dei grandi imbuti, perché qui abbiamo così navigato in pochi secondi dentro l'immaginario magico di quello, almeno quello che resta, di un certo mondo contadino. Abbiamo navigato dentro probabilmente un grande disagio psichico. Io sono convinto che il boom del diavolo in Italia, fenomeno abbastanza particolare, non riscontrabile in altre nazioni cattoliche come forse anche più profondamente della nostra, va di pari passo con, diciamo, la non attuazione della legge Basaglia. Cioè con la chiusura di quelli che venivano chiamati manicomi, con la libera passeggiata di tutti i malati psichiatrici. Beh, cosa sono quelli che Padre Petto avrebbe indicato? Persone malate da 13 anni, cioè che vengono probabilmente portate, sottoposte all'esorcismo ogni volta che la crisi psicotica si acuisce. E purtroppo questo è, diciamo così, poi discendendo per i rami, una prassi talmente diffusa nel nostro paese che sono stato testimone ultimamente della fine di una persona molto credente che di fronte a un tumore ha rifiutato di farsi curare andando a farsi fare un ciclo di esorcismo da Padre Amort, che ha accettato. È la cosa che mi ha stupito, che le tre figlie, tutte e tre laureate, hanno accompagnato la madre in questo, secondo me, delirio, nonostante che un amico di famiglia che per caso, non per caso, fa il cardinale, e di fronte a queste notizie è giunto quasi sull'orlo, diciamo così, di espressioni non proprio consone. Non c'è stato verso. Io ho amici e amiche di specchiata fede, di grande intelligenza, che ancora quando hanno dei problemi con un fidanzato, un ragazzo, lo portano la foto da Padre Ermete che li attira col magnete e che dà loro delle letture che vanno oltre le possibilità umane di leggere una fotografia sul grado di possessione diabolica di questa persona. Ne consegue da una parte che forse se il diavolo esiste, esiste solo, come ha detto il Vangelo, cioè sconfitto. E se il diavolo riappare, riappare perché la nostra fantasia culturale, oltre a produrre miti, come diceva Durkheim, e simboli, produce anche satanassi. Allora, 8.00.24, 0024, questa mattina la domanda è molto semplice. Dove vedete voi il diavolo? Lo pensate che sia il diavolo? Come voi vi immaginate il diavolo? Come ve lo raffigurate? Avete mai avuto un contatto diretto? Avete avuto un colloquio? Avete avuto un'aspirazione, un rapporto carnale con il diavolo? Raccontatecelo. 800240024. Satana vuol dire indulgenza invece di astinenza. Satana vuol dire energia vitale invece di sogni spirituali. Satana rappresenta saggezza manifesta invece di autoinganno ipocrita. Satana rappresenta gentilezza e tenerezza solo a chi le merita invece di amore sprecato agli ingrati. Satana vuol dire vendetta invece di porgere l'altra guancia. Satana rappresenta tutti i peccati che lo portano alla gratificazione fisica, mentale o sentimentale. Ecco, questo è un decalogo che abbiamo preso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Poi la rete è un ricettacolo infinito di tutte le declinazioni possibili della creatività umana, e naturalmente anche sul diavolo ci sono tonnellate di siti, mega byte di chissà cosa. E tra questi abbiamo preso appunto questo decalogo, una definizione della Chiesa di Satana. Satana è come il grande liberatore, è colui che ci affascina, è colui che ci toglie i vincoli, è colui che ci impedisce quella mestizia che vorrebbe imporre la religione, una visione etica e metafisica della vita. Ha ancora senso oggi quando questa sorta di rivolta splendida e demoniaca è vissuta quotidianamente? Basta aprire un giornale, guardare una pubblicità, basta vivere per rendersi conto che, ahimè, ormai tutte le tentazioni sono superate. E soprattutto, insisto sul fatto, nessuno ti chiede l'anima in cambio, anche perché nessuno pensa più che possa esistere un'anima. E quindi cosa chiede il diavolo in cambio oggi? Ma io credo che il diavolo che ci siamo inventati per questi nostri confusi tempi è il diavolo, diciamo, che ci conferma nelle tante menzogne che ci costruiamo continuamente. Sembrava una specie di predicozzo da prete buono per ogni circostanza, e poi non lo so, ho l'impressione che addirittura avevamo costruito un intero sistema socio-finanziario sulla menzogna, cioè su soldi che non avevamo e su debiti che venivano spacciati per ricchezza. Allora c'ha ragione Padre Amato quando dice che la crisi all'Italia è dovuta al demonio. Ma dal punto di vista, lì bisogna anche... Padre Amort da che parte probabilmente si è messo quando ha fatto questo discorso? Probabilmente da parte dei familiari di qualche dipendente dell'indotto all'Italia, che da quelle 800, 900, 1000 euro al mese che quell'attività portava alla famiglia, aveva costruito una realtà che ora non si ritrova più. Tradotto dal linguaggio dell'economia, linguaggio spiccio di quel malessere che porta una persona a piangere e a magari strapparsi i capelli davanti a Padre Amort. Se Padre Amort dice a quella persona è il demonio che ci ha mentito, simbolicamente parlando dice qualcosa di vero. Poi quando si va a decriptare il linguaggio simbolico bisogna necessariamente ritradurlo in qualcosa di diverso, però forse anche lì c'è una verità raccontata in un certo modo. Però anche lì, se viene assolutizzato, c'è la grande menzogna che viene raccontata. Sì, perché per uno che modo va da Padre Amort, altri 50 vanno dalla fattucchiera, dalla maga, da quella che vedono in televisione, gli portano le mutande del marito, la dentiera del nonno, a ribenedire, a vedere se lì ci sono i segni della possessione. Paola, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, io ho sentito poco fa il suo ospite che diceva che se noi crediamo al Vangelo il diavolo è stato sconfitto. Ed è una grandissima stupidaggine, scusi, perché... Al suo punto di vista, non lo contesto. Non è un punto di vista. Se uno legge il Vangelo sa perfettamente che Gesù ha detto che lui è venuto... Quindi lei rivendica, una sua... Sì, sì, no, signora, lei rivendica una sua interpretazione del Vangelo. Se lei legge l'Apocalisse, parliamo del ritorno... Ma lei di quale setta fa parte, signora? No, io sono cattolica, guardi che essere cattolico vuol dire leggere il Vangelo, non parlarne per sentito dire. Assolutamente, leggerlo, ecco, e viverlo. Tra l'altro, penso, i cattolici sanno perfettamente che nella propria vita c'è una battaglia spirituale che va combattuta ogni giorno, e non si può dire Gesù ha già vinto per tutti e tanto la nostra vita andrà bene perché andrà bene, no? Sì, ma il diavolo in questo... È una battaglia spirituale. Ho capito, signora. Padre Amort è un gentiluomo, è una persona in gamba e non penso che scuri i tumori facendo gli esorcismi. State dicendo delle stupidaggini. Sì, signora, chiaro? Ma con calma, ecco, non si arrabbi. Molto semplice. Sì, ma non si arrabbi però, signora, stia tranquilla, perché è sintomo di possessione diabolica essere così veementi. Siamo qui per risponderle tranquillamente. Penso che né il Padre Eterno né il diavolo si sentiranno chiamati in causa dalle nostre misere parole. Comunque, avendo un prete a disposizione, io non posso parlare del Vangelo con cognizione di causa quanto può parlarne un prete. Filippo. Beh, si dà il caso che ho fatto per 15 anni commissario all'ordine della fede, quindi magari il Vangelo lo conosco pure io e in chiesa ci vado. Sì, parlatene tra voi. Che... No, cioè, diciamo così, forse non... la signora non è ancora arrivata al capitolo. Ma perché cui... è così incazzosa parlando di Ma Vangelo? Ma perché... È ancora lì la signora, non è che la vogliamo... Perché diciamo così, stranamente, uno dei grandi così, dibattiti interni è questa specie di cattolicesimo di resistenza identitario, come se il cristianesimo fosse assediato da chissà quali nemici. Poi nella parte del Vangelo a cui mi riferisco io, quella in cui Gesù risorge, da cui traiamo tra l'altro anche la formula della soluzione, se si confessa magari ascolti bene quello che il sacerdote dice al momento della rimissione dei peccati, nessuno nega l'esistenza del diavolo, ma se Gesù è risorto, se Gesù ha vinto il male e ci ha ricostituiti nella condizione del bene, vuol dire che il nemico, il grande mentitore, è stato sconfitto da chi ci ha introdotti nella verità completa di ciò che Dio vuole da noi. Poi c'è anche un'altra piccola realtà, diciamo così. Io parlo di cose che ho visto, e quindi diciamo, prima di lanciare accuse di idiozia a qualche altro, forse è meglio così riferirsi alle proprie esperienze, perché se uno pensa che è cattolico più di qualche altro solo perché riesce a proiettare qualche paura in più addosso a chi invece il Vangelo lo utilizza per vivere quotidianamente nella libertà dei figli di Dio, forse diciamo così, stiamo ritornando al discorso che dicevamo prima, ci invendiamo simboli ma ci invendiamo soprattutto satanassi. Senti Filippo, mi sta scrivendo Nello, dice: rispetto alle manifestazioni soprannaturali come le improvvise affermazioni in aramaico, le levitazioni, cosa ne pensa il nostro prete? I fenomeni. Io ho avuto il grande piacere di parlare a lungo con Monsignor Corrado Balducci, quando diciamo ancora settantenne insegnava alla Pontificia Università Lateranense. Monsignor Balducci parlava di circa 35.000 casi che aveva studiato e analizzato. Lui ha scritto anche nei suoi libri, ha scritto nei suoi libri che di quei 35.000 casi, di uno era sicuro si trattasse di possessione diabolica, di un altro caso aveva qualche dubbio, di tutti gli altri casi li rimandava a ciò che la psichiatria può spiegare. D'altronde non dimentichiamo che nel 52 Pio XII, nel rieditare il rituale dell'esorcismo, ci aggiunse una nota in cui faceva divieto a ogni esorcista, se non istituito dal vescovo, di procedere all'esorcismo se prima non aveva avuto il consulto di almeno 3 psichiatri. Nota che esiste ancora nell'attuale rituale, che è stato anche semplificato dai vari titoli appunto che si sentono ancora circolare in giro. Cioè non c'ha più le corna, non c'ha più gli zoccoli, non è più il dragone infiammato. Tant'è vero che padre Amort si fece, diciamo così, portatore di un'istanza secondo la quale, secondo lui e altri esorcisti, questo rituale funzionerebbe di meno di quello precedente perché sbaglia i nomi, però diciamo lì si può discutere perché il rituale è stato promulgato dal Papa, il Papa suppongo che anche quando parli di diavoli qualcosa ne sappia, insomma. Ecco, ci fermiamo un istante, anche se l'argomento vedo che è affascinante. Melog 2.0. 28 maggio 2004. Gli inquirenti stanno scavando da 10 giorni in un bosco di Summa Lombardo, in provincia di Varese. Qui dentro sono rimasti nascosti per 6 anni i corpi di Fabio Tollis e Chiara Marino, due ragazzi di 16 e 19 anni, scomparsi la notte del 17 gennaio 1998. I due sarebbero stati assassinati nel corso di un rito satanico, un rito durante il quale sarebbero stati sacrificati al diavolo dalla setta delle bestie di Satana. I componenti della setta che finiscono in carcere sono ragazzi poco più che ventenni, schiavi di quella corrente del rock definita satanica, ma schiavi anche della droga e del demonio. Chiara, per la setta, doveva morire perché rappresentava la Madonna. Questi sono solo dei delinquenti, perché il diavolo non interverrà mai in nessuna uccisione. Non si scherza con queste cose. Credo nella realtà di Satana. C'era Martin Lutero che usava delle parole, traduco male, stronzetto gli diceva, no? 800240024, questa mattina abbiamo ritirato fuori dal baule il vecchio Satanasso, che però non sembra poi molto rinnovato, non sembra molto diverso da quelle iconografie del passato. Alla fine la rilettura che ce ne fa il cinema pluridimensionale, iperrealistico, è molto simile a quello che si vedeva nelle antiche edicole in cui venivano mostrate queste terrificanti squarci dell'inferno per far riflettere gli uomini su quello che sarebbe stato la vita se loro non avessero seguito appunto una retta esistenza. E, oltre alla banalizzazione del diavolo attraverso varie forme del trasmettere quotidiano il pensiero, la pubblicità, le citazioni, la banalizzazione attraverso la televisione, l'onnipresenza del segno demoniaco in ogni manifestazione psichiatrica, via dicendo, abbiamo anche una notevole ricaduta negli episodi di cronaca. Sempre più spesso abbiamo episodi di cronaca legati a una misteriosa pista satanista. A un certo punto, in un interrogatorio, l'accusato dice: vedevo delle ombre, ero ossessionato da ombre. E io ho trovato la stessa frase nei Demoni di Dostoevskij, quando il protagonista negativo, prima di fare il suo più atroce delitto, cioè di costringere a impiccarsi da sé una ragazzina, confessa a un vescovo ortodosso: ero ossessionato dalle ombre, vedevo le ombre. Nel vuoto nichilistico, come si dice, nel culto del nulla, alla fine si inserisce qualche cosa che non è nulla, ma è un nulla al quadrato, cioè è questa entità satanica. Questo era Renato Farina, che dava una sua lettura di un episodio di cronaca. Vedere le ombre equivale, in chiave dostoevskiana, avere un contatto con l'aldilà infero. Ma a me capita molto spesso, alla quarta tequila e al settimo margarita, anch'io comincio a vedere la realtà un po' adombrata. Ma è pur vero, guardate, in un motore ricerca esiste un signore che in un suo sito scrive: Gianluca Nicoletti è il diavolo. Quindi anch'io sono stato toccato da questo terribile anatema. Però vorrei approfondire un po' più il problema delle sette sataniche, del satanismo, di quello che viene spacciato per satanismo negli episodi di Cronaca Nera. Abbiamo al telefono il professor Vincenzo Maria Mastronardi. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Psichiatra, psicoterapeuta, criminologo, direttore dell'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psichiatriche Forensi presso l'Università La Sapienza, mi sembra, se non sbaglio. Sì, La Sapienza di Roma, ecco, facoltà di medicina. Lei ha scritto un corposo libro per la Newton Compton, Sette Sataniche, dove fa un excursus degli episodi di cronaca degli ultimi anni. È così presente? In che maniera è presente? Quali sono i sintomi ricorrenti per cui a un certo punto un giornalista o un criminologo comincia a dire: qui c'è dietro lo zampino di Satanasso? Il libro lo abbiamo scritto con Ruben De Luca e Moreno Fiori. Moreno Fiori, che è un demonologo, un domenicano, come lo definisco, il mio demonologo di fiducia. E con lui abbiamo visto che in realtà una percentuale estremamente elevata è caratterizzata da pseudo settari, da pseudo satanisti, e quindi una serie di volontà caratterizzate da volontà di approvvigionamento di materiale umano da utilizzare a scopo rituale, tessuti, liquidi biologici, ossi, interi organi. Questo è un dato accertato concretamente? Accertato peraltro con il libro bianco del Ministero dell'Interno, pubblicato il rapporto del Ministero dell'Interno, già pubblicato nel 1998. Ecco, si ebbe la possibilità di effettuare una ricognizione nazionale anche se noi l'abbiamo estesa a livello internazionale, e quindi che abbiamo pubblicato nel nostro libro Sette sataniche, quindi il rapporto del libro bianco del Ministero dell'Interno, che parla di nuovi movimenti magici e parla di 61 gruppi, questa è una ricognizione italiana, con 4.600 aderenti. Quindi non era del tutto peregrina l'ipotesi, che poi mi sembra abbastanza arenata, che è uscita a un certo punto, che dietro la vicenda del cosiddetto mostro di Firenze c'è proprio la necessità di reperire tessuti umani, parti intime femminili per rituali di tipo satanico. Fu una pista investigativa estremamente molto attenzionata appunto da parte degli organi investigativi, e che comunque aveva a che fare con oggettive ricognizioni, quindi tutto lasciava pensare che realmente potesse esserci questo. Ora, ma se lei, professore, realmente il suo punto di vista, che delle persone abbiano aperto, ritrovato antichi grimoire, che abbiano inventato rituali, ritrovato la maniera di riportare alla luce antichi testi di evocazione demoniaca, ce ne sono a tonnellate, a migliaia di strumenti per evocare il demonio, e lo facciano, può essere un dato di fatto, ma lo fanno realmente perché tendono di allacciare dei legami sottili con forze occulte demoniaca per avere potere, o una grande scusa per fare delle grandi ammucchiate collettive o cose del genere? Ci sono diverse categorie, le categorie sono 8, sono coloro, tra queste categorie vi troviamo coloro che realmente non fanno altro che una ricerca, e sono i trasgressori transgenerazionali, cioè alla fisiologica ricerca di trasgressione transgenerazionale classica dell'età adolescenziale, che si può protrarre anche a lungo attraverso gli anni, non cessando di essere adolescente una persona neanche a 40 anni, e che talvolta può essere scelta, caratterizzata da un comportamento estremizzato e perverso. Ecco, ma quando è professore che questo atteggiamento da, diciamo, cazzaro adolescenziale diventa un soggetto psichiatrico a tutti gli effetti? Dobbiamo distinguere un momentino a priori, in quanto abbiamo con tutti gli autori che si sono occupati, da Benson a Downs, Granone, Kemp, io stesso, condividiamo appunto che può esserci isteria con fenomeno di autosuggestione in seguito a letture, film, pratiche spiritiche, necessità di convincere se stesso della bontà in cui si crede, a schizofrenia con allucinazioni vere e proprie. Le basti dire che in modo incerto, in certi casi, ricordo uno per i miei processi associativi mentali, ricordo una signora che vedeva il diavolo dalle 6:30 di pomeriggio in poi, quando rientrava l'inquilino del piano di sopra e cominciava a fare i suoi rumori, i soliti rituali. È bastato una pillola di anti-allucinatorio, quindi di un deliriolitico, una somministrazione, quindi una pillola al giorno, le per 6 o 7 giorni, inevitabilmente è scomparso il demonio, ho scacciato il demonio negli inferi. Ora, questi sono criteri ex adiuvantibus che ci lasciano capire quanto in realtà veramente l'articolo 15 del libro degli esorcismi consiglia appunto di rivolgersi dapprima a uno psichiatra credente, aggiunge poi dopo l'articolo 15, e che abbia la possibilità quindi in realtà di distinguere con oggettività. Scusi professore, c'è padre Filippo Di Giacomo qui sulle con me, deve aggiungere una cosa. Non consiglia, ordina. Ah, il prete specifica che ordina che lo psichiatra sia, giustamente mi sembra. Sì, infatti. Grazie padre. Padre Amort, nell'ultimo caso, infatti, che mi ha inviato appunto di una signora poverina realmente disturbata, cioè aveva visto giusto, perché non vi erano appunto per niente volontà, voglio dire, occulte dell'aldilà, caratterizzate da un condizionamento quindi satanico, ma la poverina era disturbata mentalmente e aveva necessità di essere curata. Quindi in conclusione anche lei tende, come appunto l'ospite che ho avuto in prima parte, ancora qua, padre Filippo Di Giacomo, a ridefinire il fenomeno, tutto quello che noi chiamiamo diavolo, definiamo diavolo, diamo possibilità di infratrascendenza, in realtà molte volte è ascrivibile e decifrabile anche con strumenti molto più banali, molto più moderni, molto più spiegabili. Ecco, io condivido quello saluto padre di Giacomo, che sento sempre molto attento a questi argomenti che mi stanno particolarmente a cuore, e in realtà non dobbiamo abolire, sono credente, quindi credo credo in Dio, credo negli angeli e nei demoni, però è una percentuale estremamente limitata. Vi faccio un esempio che veramente credo che possa servire ad illuminare. Una persona che è caratterizzata da coprolalia, abbiamo una nevrosi ossessiva, per cui entra in chiesa e sente la necessità di bestemmiare contro le figure sacre, convince se stesso, avete visto, non sono io, è il diavolo che mi possiede. In realtà è una nevrosi ossessiva, prende anche la pensione il poverino. Sì, c'è una povera disperata barbona pazza che gira qua intorno fra Largo Chigi e Piazza Colonna, che si mette davanti a Montecitorio e ha lo stesso eccesso di coprolalia, se la prende con il governo. Evidentemente ognuno ha i suoi riferimenti di ordine diverso. Eccoci a riparlare di Satanasso. 800 24 00 24, il nostro ascoltatore che mi segue da poco anche su Facebook ha la fortuna, sfortuna, la fatalità di chiamarsi Di Cristo di cognome, l'hanno chiamato Agnello di nome. Mi raccontava le sue vicende del piccolo Agnello di Cristo a scuola, che hanno messo seduto accanto a un altro ragazzo che si chiamava Dio Tallevi e tutta la classe li prendeva in giro. Adesso mi dice: Gianluca, che freddo, non si lasci coinvolgere dalla nostra trasmissione, a noi piace giocare, giocherellare, scherzare anche con Satanasso, crediamo che sia la maniera migliore per tenercelo comunque lontano, siate voi credenti, non credenti, agnostici, con la verità in tasca, come tanti che mi stanno chiamando e dicendo la loro. 800 24, insisto, fatemi sapere se ne sapete qualcosa del diavolo, perché finora di certo non è venuto molto. Enzo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, mi fa piacere parlare con lei, è la prima volta che chiamo. Allora, io stamani volevo solo dire una semplice cosa, e che secondo me stamani stiamo facendo un favore a Satana. Davvero? Per il semplice fatto. Beh, io spero che me ne sia grato, con cornucopie, donne, ricchezze, eterna felicità, non so, almeno per questo. No, per un semplice fatto di questo sono più che consapevole, perché lui ama, non ama, ecco, che la gente parla di lui. Lui vuole, perché lui sa di esserci, e non ama che ci si faccia pubblicità. Ma lei lo ama, sa che c'è? Mi dico? Lei lo sa che c'è? Sì, io sono convinto di questo, anche perché, tra parentesi lo dico, anche se non lo sottolineo, che sono cattolico, sarebbe anche stata inutile la venuta di Cristo nel mondo, perché Gesù Cristo è venuto nel mondo per insegnarci l'amore, per portare amore, per insegnarci il suo... Ma il diavolo quindi esiste solo per i cristiani? No, non mi confondo, io non lo volevo nemmeno dire che era un mica ancora si è perso. Qua non vengono messe a rogo le persone per dire di essere cattolico. Potrà accadere. Ancora no. No, perché sembra che uno, essendo cattolico, viene suggestionata da questa cosa. Giustamente viene suggestionato, scusi, è chiaro che viene suggestionato, giustamente, ma lo vedo in positivo. Scusi, se la fede, parla una persona che è il più indegno dei credenti, quindi non ho nessun titolo per dirlo. Però scusi, ma se uno dice sono cattolico, ha il coraggio di dirlo e affermarlo, immagino, spero per lui che sia anche suggestionato da questa scelta, cioè guidato, spinto, condizionato in qualche maniera, felicemente certo, condizionato. Quello in parte è vero. Se no, uno lo dice e poi non lo è, che mica siamo nelle catacombe, cioè possiamo... No, per l'amor di Dio, perché le ripeto, perché lei discorso che uno dice questo è un cattolico credente, è naturale che crede che Satana esiste. Io non sono d'accordo col suo amico prete, per l'amor di Dio, rispetto la sua idea, è giusto che ognuno la pensi a modo suo, però sono convinto che lui esiste e lavora su questo. Ma mica ha detto, Don Filippo non è che ha detto non esista il diavolo, Filippo mi sono sbagliato. No, ma io credo all'esistenza del diavolo, però vorrei ricordare, però vorrei ricordare all'ascoltatore che il giorno in cui, diciamo così, gli hanno dato quel sacramento che gli permette di dire serenamente io credo in Cristo, cioè non solamente in qualcosa, ma proprio in Cristo che vive insieme al Padre e allo Spirito Santo dentro di me, nella mia anima. Quel giorno con il battesimo è stato fatto un esorcismo. E quindi chi se ne frega del diavolo? Quindi diciamo così, quello è il segno in cui nessun cristiano sarà mai sconfitto dal demonio. Questo è dogma di fede. Sono d'accordissimo. Dopodiché diciamo così, che il diavolo sia il caprone, dico questo è legato a un certo immaginario contadino dei secoli passati, o il diavolo sia quel venditore di pignate che ti riesce anche a vendere idee morali o ti porta a fare dentro una trasmissione, perché io mi chiedo, quei personaggi che stanno in una trasmissione televisiva oggi come oggi non hanno avuto una mamma, non hanno avuto un imprinting morale dalla scuola, cioè questo gli ha insegnato il sistema sociale italiano, quella specie di rappresentazione. Per esempio, quello io lo potrei anche dire simbolicamente che è una manifestazione demoniaca, perché vedo 10 persone espropriate verosimilmente di ciò che la famiglia, la società e il vivere comune ci ha dato a tutti. Ma tu sei ottimista, tu però Filippo. Non per questo diciamo così dico vince il diavolo. Se vado in chiesa, credo in Cristo, coltivo la vita della grazia, mi confesso e faccio la comunione, l'esorcismo del battesimo basta e avanza, perché o ha funzionato o non funziona. Allora, se posso dire la mia, Filippo, io la vedo, hai perfettamente ragione dal punto di vista della tua ortodossia, è che in realtà, ahimè, è molto staccata la reale consapevolezza del proprio appartenere comunque a una chiesa, a una religione, a una visione della vita, che se lo dimenticano, vedi, deve ricordarselo il Signore, cioè, mi scusi, non voglio dirlo perché temo che poi la gente dica che sono condizionato. E quando è così ci si perde l'aspetto fondamentale, basilare di quello che voglia dire essere cristiani. Poi, ripeto, io sono l'ultima delle persone che può dirlo. Riguardo quello che dice le persone espropriate della propria educazione, ahimè, in questo sono molto più drastico e molto più radicale di te. Dentro non ci stanno soltanto i figli, ma ci stanno i genitori, i padri, i nonni, le nonne, ci stanno i politici, ci stanno le istituzioni, ci stanno tutti. Oggi, se dovessi rappresentare nella mia immodestia la cornucopia di Sant'Antonio nel deserto, non la vedrei più piena di frutta, di donne lussurose, la vedrei piena di passaggi in televisione. Ecco, anche quello, diciamo così, simbolicamente io lo ritengo demoniaco, però se sono cristiano so che ho vinto anche, se voglio, ho vinto anche contro questo. Marco, buongiorno. Marco, questo. Marco da Padova. Buongiorno Nicolini. Nicolini io... sarà suo zio, scusami, mi chiamo Nicoletti. No, scusi, è la cattiveria mia. È un lapsus, scusi. È malissimo. Io faccio parte di un... Dorma preoccupato, prego. Così. Io faccio parte di un culto, se vogliamo chiamarlo così, che è... Satanico? Per molti anni la Chiesa Cattolica l'ha definito tale. Oggi è stato ridimensionato come... E come si chiama? Wicca. Ah sì, Wicca, ma sì, ne ho parlato in una trasmissione, certo. Ma non avete niente a che fare col diavolo voi, che c'è? No, esattamente. Non che però molti dei nostri simboli sono stati, diciamo, piratati dalla Chiesa Cattolica e dal culto comune esempio? Trasformati in simboli demoniaci. Cioè, per esempio il pentacolo. Ah, beh, il pentacolo era un simbolo pitagoreo, non faccia così ingenui anche quelli della Chiesa Cattolica, e soprattutto non pecchi della terribile onta del vittimismo, sia felice, sia pagano, se le fa star bene star pagano, ma avete eluso, come sempre si fa quando si parla di argomenti di cui non si può parlare, la mia vera domanda. Nessuno mi ha chiamato e mi ha detto, io il diavolo l'ho visto, l'ho conosciuto, non ho esperienza, quindi il diavolo al momento, per quello che ci riguarda, non esiste. Alla prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.